Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Mi sembra di aver osservato, e spero questa mattina qualcuno confermi o smentisca la mia impressione, che ultimamente la gente ha un po' più voglia del solito di menare le mani. Mi capita sempre più spesso, anche se non sono certo io il tipo che ama collazionare le notizie omogenee per fare subito un caso, mi sembra, ripeto, di aver osservato che ultimamente è sempre più frequente persone apparentemente insospettabili, non certo appartenenti alla genia dei coatti che sono abituati sin dalla tenera età a farsi largo con mani, calci, pugni e testate, abbia invece l'attitudine di muovere le mani. Succede sempre in luoghi più insospettabili, succede sempre più in luoghi ameni, in luoghi in cui la gente dovrebbe andare e rilassarsi, dovrebbe divertirsi, dovrebbe passare piacevolmente il proprio tempo, che qualcuno alzi le mani su qualcun altro. Ora, noi non siamo molto abituati a menare le mani, non siamo una civiltà di persone manesche, è molto tempo, sono passati veramente tanti anni, per cui occorreva dare prova di vigoria fisica per essere rispettati, o perlomeno questo accade in luoghi e in circostanze e società molto arcaiche, in cui il maschio alfa deve dimostrare che è quello che picchia, sottomette, batte tutti gli altri maschi. No, io penso che ci sia, da un certo punto di vista, una sorta di aggressività repressa, fortissima. Forse dipende dal fatto che esiste una maniera esageratamente edulcorata di porsi nei confronti del prossimo. Poi la gente è veramente schizzata, perché secondo me c'è una, e di questo abbiamo già parlato, un uso esasperato, compulsivo, diffuso, costante anche di sostanze che probabilmente accentuano questa aggressività. Beh, questa mattina vorrei semplicemente verificare sul campo quella che è una mia impressione, potrei anche sbagliarmi. Quante volte vi siete trovati anche voi in procinto di dover menare le mani o perlomeno dover difendere, o qualcuno che inaspettatamente, perché non siamo pronti, usciamo la mattina, non usciamo certo dopo aver preso a pugni un sacco, dopo esserci sgranchiti le dita, aver tirato qualche calcio per vedere se siamo pronti all'attacco. No, questo non accade. Usciamo tranquillamente, la sera ancora più tranquillamente, vogliamo rilassarci, divertirci, fare la nostra vita, ma troviamo improvvisamente una situazione che non fa parte della nostra cultura, delle nostre abitudini, o perlomeno retaggi lontani, in cui gli anni in cui a scuola era normale che la gente menasse le mani, era normale perché era così forte il contrasto politico che il menare le mani era vicenda quotidiana. Ma poi è passato quello, a meno che non si vada allo stadio, a meno che non si vada in luoghi ad alto rischio, a meno che non si faccia lo spacciatore, il teppista, il bullo di periferia, perché dovremmo essere pronti, abituati a mettere le mani addosso a qualcuno o difenderci da qualcuno che ci mette le mani addosso? 800 24 00 24, vi aspetto. Ha fatto finta di avere una pistola, ha messo la mano dietro la schiena e ha minacciato di esplodere un colpo, e così per difendermi sono scappato e l'ho investito accidentalmente. Un operaio romano 28enne ha confessato di essere stato lui lunedì scorso a ridurre in fin di vita Tiziano Vitali al termine di una lite per motivi di viabilità a pochi passi dall'Eur. È ancora una strada di Milano ad aver fatto da sfondo all'ennesima esplosione di violenza, ancora una lite per un sorpasso ad aver innescato un'ira incontrollata. Sono stati superati da una Matiz che ha urtato la loro auto. I due hanno risposto a colpi di clacson, poi dalla Matiz è sceso un uomo con in mano un crick, li ha colpiti con violenza alla testa e alle braccia, poi è fuggito. Soccorsi i due giovani, sono stati ricoverati. 800 24 00 24. Cominciamo a delimitare, a seconda di quelli che sono i flussi di cronaca che abbiamo più o meno accorpato, quelli che sono gli ambiti in cui scatena la furia manesca. Naturalmente l'automobile è quello privilegiato, è uno dei luoghi in cui è più facile che l'uomo si trasformi in animale. L'automobile protegge, l'automobile dà l'idea di una proprietà esclusiva, una proprietà intangibile, è qualcosa che centuplica, moltiplica e aumenta le nostre capacità di muoverci nello spazio, di occupare spazio, di aumentare l'impatto sonoro, acustico, olfattivo, visivo della nostra persona. È la nostra protesi, la nostra prolunga. Naturalmente l'automobile ci fa sentire come quei personaggi dei cartoni animati giapponesi degli anni 70, che erano sempre dei ragazzini e delle ragazzine all'interno di un grande robot Transformer. In realtà il ragazzino muoveva le leve, il robot aveva tutta la forza, ma il ragazzino era il robot, e quando combattevano era il robot che combatteva, e il ragazzino era la sua anima. Dentro la nostra automobile, la nostra utilitaria, la macchina che stiamo pagando, la macchina spocchiosa che abbiamo comprato per farci invidiare, noi siamo come il pilota di un gigarobot o di un Mazinga Z, ci sentiamo invincibili e ci sentiamo anche dotati di alcuni interessanti accessori che possono aiutare nei momenti della bisogna. Vedi blocca sterzi, vedi crick, vedi cacciaviti, vedi accessori vari. 800240024. In che occasione avete avuto veramente paura? Avete rischiato che qualcuno vi mettesse le mani addosso? Avete visto trasformare un vostro simile in maniera che voi nemmeno potete sospettare? Antonio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, io sono un ex pugile, mi alleno ancora, faccio il... E sulla violenza avrei qualcosa da dire, nel senso che non è tanto sbagliata la violenza in sé, perché comunque se la natura ce l'ha data vuol dire che ha un ruolo nella nostra sopravvivenza. Io infatti, parlo di violenza gratuita, fuori posto, fuori il senso. Il problema è che non sappiamo più usare questa forma fisiologica che la natura ci ha data. Ma lei pensa non abbia mai l'istinto di picchiare una persona per strada per un sorpasso? No. Perché gli animali, prima di arrivare all'attacco, ma ci pensano non due volte, tre volte, quattro volte, siamo noi che abbiamo perso la coscienza della violenza, perché non l'abbiamo l'abbiamo repressa, perché la violenza è stata associata a qualcosa di sbagliato e quindi viene utilizzata anche quando non è necessario utilizzarla, anzi viene solo utilizzata quando non è necessario. L'animale aggredisce per mangiare o per riprodursi, l'uomo aggredisce anche se una persona ti sorpassa e questo è, ti suona col clacson. Questa è una cosa che nel mondo animale non esiste. Nessun leone si azzarderebbe a rischiare la propria vita per uno sguardo sbagliato di un altro leone. Quindi scusi Antonio, cerchiamo di capire, lei ci può aiutare. Lei fa uno sport, un'attività fisica che è un'attività legata, incentrata sul combattimento, quindi per lei il combattimento è una prassi, è qualcosa che lei conosce, di cui conosce le regole, di cui conosce gli effetti. Lei sa quanto fa male prendere un pugno in faccia, lei sa quanto fa male prendere un pugno sullo stomaco, lei sa cosa significa tornare a casa appestati di botte. Quindi normalmente gli occhi e ti gira la testa. Sì, gli effetti tipici di quando si prendono le botte, ogni tanto capita nella vita. Ecco, ma come si spiega in realtà che ci sia una così diffusa e crescente mania di mettere le mani addosso anche in quelle classi di persone che normalmente non lo fanno, non l'hanno mai fatto? Io capirei in alcuni ambienti molto marginali in cui la violenza è la legge del branco, è quella che regola tutti i rapporti. Come mai tranquilli umarel di famiglia si scatenano in animali sempre di più? Perché abbiamo represso la violenza, abbiamo fatto crescere la codardia. La violenza di cui lei parla è figlia della codardia. L'uomo attacca solo quando inconsciamente o consciamente pensa di poter avere un predominio sull'avversario. Io sono 60 kg. Se vado in macchina la gente mi suona continuamente perché mi dà un occhio, ho gli occhiali, ho speso 60 kg e la gente non pensa che sono un pugile che se scende magari avrebbe qualcosa da dire. Quando vado col mio amico Ermanno, che è un bestione di 85 kg, che è il più buono del mondo, non lo suona nessuno. E quindi anche da questo punto di vista la capacità di combattimento, la capacità di reattività è legata all'apparenza, come le tette al silicone, i culi finti, come i muscoli bombati in palestra, è la stessa cosa. Non c'è più la valutazione dell'avversario e la valutazione esatta della sua forza, la sua potenza, il potere d'impatto, e quindi tutti sentono supereroi, nessuno valuta che in realtà una persona inoffensiva, se offesa fortemente, potrebbe girargli e magari fare molto male, come spesso accade. Grazie Antonio. Rossella. Buongiorno. Io volevo dire una cosa molto semplice, era una piccolo excursus piccolino. Io lavoro al cinema, anzi lavoravo, e il cinema è un luogo deputato al rilassamento, al piacere, al divertimento, quindi le persone teoricamente dovrebbero essere molto pacifiche. Invece ci sono molti episodi di aggressività incontrollata. Fortunatamente le persone... Al cinema questo accade? Questo al cinema, sì. Cioè in platea la gente si mena? No, in platea no, quando debbono accedere alle sale. Ah, in quella parapiglia, quando si aprono le sale, che sì, tutti hanno i biglietti? Sì. Ma i posti non sono già numerati, i posti, mi scusi Rossella. Sì, sì, i posti sono già numerati, ma le persone non solo quando c'è la fila, ma anche se sono da sole. Perché io ho notato che il fatto del divertimento, le persone lo abbinano con il fatto del non regola. Quindi se uno gli mette davanti una regola, anche in una situazione così, le persone scattano molto facilmente. E lei ha assistito a momenti... Io ho visto delle... Sì, sì, ad esempio... non si può entrare con del cibo che non sia comprato al nostro... Certo. Punto vendita, popcorn, no? Hot dog. Una cosa molto piccola, una persona era entrata, aveva in mano una pizza, e noi non si possono fare entrare le persone con dei liquidi o che possono sporcare le poltrone. Questa signora l'ha proprio scaraventata e l'ha appiccicata al muro, gridando. Aveva qualche problema questa signora probabilmente. Ma questi episodi capitano abbastanza di frequente. Io penso che le persone non sono più abituate a manifestare il proprio disagio e l'aggressività, e siccome noi siamo pieni di input che ci arrivano continuamente, che ci stimolano a fare, a produrre, a essere perfetti, penso che le persone sono pieni di aggressività. Ma quello che ce l'ha interessante... Non sanno come scaricarla. Sì, di quello che dice lei è interessante, Rossella, perché non immaginavo tra le location dello scatenamento della violenza che stiamo descrivendo, abbiamo elencato, non immaginavo che anche l'entrata in un cinema, che mi sembra la cosa più pacifica, in cui tutti hanno il loro posto, uno potrebbe anche aspettare che entrano tutti, entra per ultimo, tanto il suo posto è quello, nessuno glielo tocca. E anche in questo va un motivo comunque di scatenare rabbia. Quindi c'è una profonda, percepibile rabbia compressa, incapacità di gestire la propria aggressività. Grazie Rossella. 800 24 0024. Descrivete e raccontate anche voi dei luoghi inusuali in cui si scatena la violenza. Alla fine ha ceduto, ha ammesso di aver usato una torcia per colpire un suo coetaneo giovedì notte a Trastevere, in uno dei quartieri più noti della capitale, e l'ha fatto per futili motivi. Non una guerra fra bande, non mafia o 'ndrangheta, non motivi economici, droga o chissà che altro. No, qui c'entra solo il banale litigio dai contorni esagerati, questo sì. Le due vittime, due ragazzi come lui di 26 e 30 anni, potevano anche morire. Aeroporto di Forlì. Secondo la prima ricostruzione fatta attraverso le testimonianze degli altri viaggiatori, Paolo Petrozzi, 39enne pugliese residente ad Ancona, lascia la fila per andare in bagno e al suo ritorno vuole rimettersi al suo posto, proprio davanti Gennaro Iennaco, 38enne di San Giuseppe Vesuviano nel Napoletano. Nasce un litigio, qualche spintone, poi i pugni. Petrozzi ha la peggio, viene steso e perde conoscenza. Il suo aggressore rimane lì intorno, quasi non rendendosi conto della gravità di quanto accaduto. Nel frattempo arrivano i primi soccorsi. L'anconetano viene ricoverato d'urgenza in ospedale. Paolo, buongiorno Paolo. Buongiorno Gianluca, è un piacere ascoltarti. Volevo dare anche il mio contributo. Io abito a Roma, lavoro a Roma, giro spesso in macchina. E una mesata fa mi è successo che nei pressi del Ministero del Tesoro, in via 20 settembre, un tizio ha attraversato sulle strisce davanti a me, e lo dico non per... io non ho fatto niente, no, ma lui ha attraversato proprio tranquillamente. E io sono sopraggiunto e lui mi ha detto subito qualcosa come del tipo "c'ho le strisce", al che io gli ho sorriso come per dire, ho pensato forse non è tanto normale questa persona che reagisce in questa maniera così spropositata. E mentre che pensavo ciò, lui si è avvicinato e mi ha dato due o tre pugni in faccia. Cioè l'ha aggredita così? Sì, l'ha aggredita, cioè così, senza m'aggredito, senza che la lite generasse prima a parole e poi con le mani. Ma era una persona anziana? No, no, una persona sui 45, secondo me era qualcuno che lavorava addirittura nel dentro il Ministero del Tesoro. E sono rimasto talmente un ministeriale, bravo. Sono rimasto talmente sconvolto, poi come può immaginare tutta la gente si è fermata, e io non, ho cercato di bloccare il tipo per fargli una denuncia, per fare qualcosa. E difatti è rimasto lì, abbiamo chiamato la polizia, solo che ha tardato ad arrivare la polizia, ci ha messo una mezz'ora, e un attimo di disattenzione sto tipo mi è sparito. Ma infatti lei lo faceva, lo tenne fermo, scusi, l'aveva arrestato, come faceva? Stava vicino a me insieme a una guardia giurata. Ah, l'aveva fermato il vigilante. La presenza della guardia giurata l'ha intimorito, però questo non gli ha impedito, a un certo punto devia e scappa via. Vabbè, era poverino. Che mi ha fatto più male, a parte la violenza, il vedere come la gente è violenta, è al lavoro o con gli amici. Ma tu che gli hai fatto? Subito mi hanno detto, cioè, sono partiti come prevenuti, come se io avessi cercato io la lite. Comunque Paolo, guardi, lei mi sembra una persona, dal tono della voce, che ormai sono abituato a valutare come essenza la persona, mi sembra una persona tranquilla, pacifica, a cui non verrebbe mai in mente di fare un affronto violento nei confronti di un essere umano. Probabilmente questa persona era veramente fortemente stressato. Capitano i momenti che uno ha quei 5 minuti che sarebbe meglio che se ne stesse in un angolino buono e evitasse contatti con il genere umano. E gli è scattata la brocca. Però sempre più spesso scatta la brocca alle persone. Una volta può essere che capiti la persona che gli scatta la brocca, avrà avuto le corna sue, i fatti suoi, i problemi suoi, non lo so, e se l'è presa con lei, fine. Ma è vero che sempre più spesso, guardi, siamo pieni di telefonate. Pietrangelo, buongiorno. Pierangelo, scusate. Pierangelo. Sì, buongiorno. Pierangelo. Buongiorno, Giannino. Sì. Niente, no, io diciamo sono la parte che... Come vede, non ho reagito con violenza, sorrido. Niente, io volevo dirle cosa mi è capitato a me 7-8 anni fa. Diciamo che sono la parte, diciamo, che ha picchiato una persona. Allora, io 45 anni non ho mai alzato le mani a nessuno, sono uno scorpione, mi ritengo una persona molto buona e tranquilla, però come dico io, quando poi i buoni diventano cattivi, vengono più cattivi dei cattivi naturali, mi capisce? E quindi niente. Praticamente io abito in montagna, facevo un servizio per il comune, per diciamo l'apertura delle strade quando nevica, no? E c'era questa persona che conoscevo bene, tra l'altro era il mio dottore di famiglia, e un bel giorno andai a pulire questa strada con il mio mezzo meccanico e cominciò a insultarmi di qua e di là, a insultare la mia famiglia, a dire titoli a mio padre e mia madre. A quel punto mi capisce che uno perde un po' le staffe. Niente, scesi velocemente dal mio mezzo e lo aggredì, solo che mi accorgei quasi subito che nella colluttazione aveva un alito, diciamo, aveva perso poche parole. La fiatella alcolica. Ecco, a quel punto lì mi fermai perché magari non è in sé, ha bevuto e al di là che comunque è conosciuto nella zona perché ha un carattere, magari come dottore non si tocca, ma come carattere non è dei migliori. Va bene. Il problema è che era un dottore, mi capisce, il dottore ha del potere, io ti denuncio, mi denunciò. Gli spaccai, quando ebbi questa occultazione, gli spaccai un orologio che riteneva che era mi disse che era un regalo di sua madre, che aveva un valore estimabile. Niente, alla fine gli pagai l'orologio, lui ritirò la denuncia, gli chiesi le scuse, io come medico basta, chiusi. E quindi finì così. Cioè, il problema è che c'è molte volte anche lo strascico legale, non basta incappare in persone che mettono avanti le mani, ci coinvolgono in situazioni non proprie alle nostre abitudini, poi c'è sempre uno strascico legale, poi c'è sempre qualcuno che denuncia, è giusto denunciare quando si pensa che qualcuno abbia compiuto un reato, ma il suo caso mi sembra veramente paradossale. Melog. La realtà condivisa. Simone aveva appena 16 anni, come l'amico che gli ha tolto la vita. Stavano trascorrendo la domenica pomeriggio con altri coetanei al centro commerciale Parco Leonardo di Fiumicino. La discussione comincia all'improvviso, forse per una sigaretta negata. Sembrava che stessero scherzando, ma Simone riceve uno spintone, un pugno sulla tempia, cade a terra e sbatte la testa. Avrebbe prima insultato e poi picchiato con schiaffi e calci un proprio alunno di 9 anni di nazionalità cinese, semplicemente perché ancora una volta aveva dimenticato a casa il quaderno degli esercizi. Una storia incredibile, quella che arriva da Gravina in Puglia, nel Barese, la cui protagonista, un insegnante di scuola elementare di 52 anni, è indagata dalla procura del capoluogo pugliese per maltrattamento 8-0024-0024. Vedete che poi, andando a prendere i casi, mettendoli in fila, si notano anche le categorie più impensabili, più insospettabili. La tenerezza della maestra, è ormai un retaggio del passato, almeno in questo caso, trasforma una macchina da guerra, una massacratrice di bambini cinesi. Cosa sarà successo nella testa di quella maestra per poter fare una cosa del genere? Ma sono episodi che toccano categorie, luoghi e persone che non sospettavamo presi da questo improvviso furore di violenza. Sta accadendo quello che perlomeno emerge alle prime telefonate degli ascoltatori: una sorta di esplosione della serenità, della tranquillità, della tolleranza, del riconoscimento dell'altro come persona da rispettare, come nostro simile da non dover offendere, che improvvisamente sembra che tutto viene dimenticato. Improvvisamente ci trasformiamo in quegli esseri belluini che pensavamo di esserci lasciati dietro le spalle, aver dimenticato negli angoli più riposti del nostro DNA. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Volevo dare una mia... Ho visto un episodio praticamente 2 settimane fa qui in Milano. Praticamente un tassista è sceso di colpo dalla macchina e ha preso a pugni dopo io ho visto che era un Pony Express. Inizialmente pensavo fosse, non so, un lavavetri, perché ero in coda, e praticamente il tassista è partito subito e gli ha mollato 2 pugni direttamente in faccia. Tra l'altro quello del Pony Express era fisicamente anche ben dotato, e dopo ho visto che c'è stata una colluttazione, tutti a terra, i 2 protagonisti a terra, e si sono fermati altri tassisti per dividerli. Dopo io ovviamente ho superato l'incidente e sono passato lateralmente, ho preso per la tangenziale e ho visto praticamente che c'era la moto del Pony Express appoggiata al taxi, quindi praticamente ci sarebbero stati anche dei danni probabilmente al taxi. Però dopo ho visto poco tempo dopo il tassista salire in macchina e prendere e andare via senza. Quindi senza, secondo lei, anche un motivo in cui ci si lascia così facilmente andare alla violenza è la certezza dell'impunità. Io scendo, prendo a pugni una persona, esatto, perché ha fatto un'infrazione, mi è venuto addosso, qualunque motivo, tanto la faccio franca, non mi succede niente, lo meno e basta. Esatto, un minuto dopo ha preso, perché io ovviamente salendo su un'altra strada ho visto, perché era praticamente sul Forlanini, la strada che porta verso l'aeroporto, e ho visto che è salito in macchina, ha preso e è andato, e quindi non so come. Ecco, viene a pensare che chi è così propenso e abitualmente ci mette un nanosecondo a decidere di scendere e mettere le mani in faccia a uno, lo fa abitualmente, non sarà quella la prima e non sarà l'ultima volta, perché non anche posso perché pensare che sia un raptus. Se è così scientificamente gestita la cosa, come dice lei. Esatto, anche perché ovviamente essendo abituato a stare in mezzo al traffico, essendo tassista, però probabilmente ha visto anche le dimensioni di quel ragazzo del Pony Express e quindi è partito per primo. Quindi la vecchia regola, meno per primo, per menare 2 volte. Esatto. Però questa valeva nelle mitologie fanciullesche dei tempi della scuola media e massimo del liceo, ma erano altri tempi, non dovrebbe valere, esatto, per strada. Va bene. Esattamente altri tempi. Grazie Aldo. Giorgio. Buongiorno. Non vi ascolto più da 10 minuti circa, quindi mi ricollego a una cosa detta. Bene, racconti il suo episodio. Le posso riassumere che hanno telefonato un po' di... Ma non c'è un episodio nello specifico in realtà. C'è un tema educazionale, a mio modo di vedere. Noi siamo ormai bombardati da tutta una serie di modelli vincenti, e vincenti sempre in tempi molto brevi e unidirezionali, al punto che ormai culturalmente siamo deviati verso questo tipo di modelli, appunto. Le cito una cosa specifica: l'educazione è diventata ormai segno di debolezza. Cedere il passo a qualcuno in macchina, ma anche a piedi, all'ingresso di un bar, all'ingresso di un qualsiasi ufficio o altro, è segno di debolezza, non lo fa più nessuno, tant'è che poi quando lo si fa magari in presenza addirittura di un anziano, che gesti di questo tipo dovrebbe vederne tantissimi nel corso di una giornata normale, si finisce col destare sorpresa, perché queste persone non sono più abituate nemmeno a che le succeda loro il passo, benché evidentemente dovrebbe vedere continuamente. Quindi diciamo, lei, secondo lei ormai c'è un'attitudine all'indifferenza che, portata alle sue estreme conseguenze, diventa aggressività. Quando una persona non ha quel minimo di tenerezza nei confronti di un anziano, di una persona che vede più debole, vedo anch'io, poi sembra che faccio discorsi da umarello ormai, ma anche molte volte mi stupisco dell'indifferenza dei ragazzini che vedono persone chiaramente lesionate nel fisico, stare in piedi, barcollare nelle metropolitane, non hanno nemmeno un attimo di pietà, ma non niente, proprio, non sta proprio nel loro DNA in quel momento fare qualcosa. Quelle sono persone che secondo lei sarebbero capaci di qualunque cosa, se sollecitate ancora di più. Assolutamente, assolutamente, perché si è perso, come diceva il pugile precedentemente, si è perso il senso del limite, al di là della motivazione, quindi scendere dall'auto con un cric in mano e mollarlo in testa a chi c'è all'interno di un'auto che ti ha sorpassato, magari usando il clacson, può sembrare assoluta normalità, ed evidentemente non è così. Ho assistito a diverse scene nel traffico di Milano alle 9 di mattina, gente che si insegue con l'automobile in mezzo al traffico a quell'ora. Chi è di Milano, ma una qualsiasi città. Sì, ma le lascio immaginare cosa accade a Roma se uno non fosse più che tranquillo e sereno la mattina, che sono molto più virulenti da quel punto di vista. Roma, sì. Quindi, però lo immagino, sì. coi taxi lo vedo. Ma non sono tanto i taxi, la mattina la gente esce da casa che è già arrabbiata, è incazzata a marcia, sì. Non si sa perché. Uno dice, ma come, sei così appena alzato? Questo viene da pensare, pensa cosa sarai stasera. E sono inviperiti, arrabbiati, aggressivi. Marco. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Niente, mi sentite? Sì. Certo, benissimo, chiaro. Niente, io sono un tipo che viaggio tantissimo in auto, faccio il tecnico, e solitamente, anzi diciamo quasi sempre, rispetto i limiti, specialmente per gli extraurbani. E sto verificando tutto ciò che avete detto nella telefonata precedente. Ossia, mi trovo spesso a rispettare i limiti, sia in fase di sorpasso, sia in fase di lavori. Ossia un'autostrada agli 80, 90 a seconda appunto dei cartelli che indicano volta a volta quello che c'è, e l'eccesso però lo raggiunsi in una superstrada quando a 110 sorpassavo un paio di camion e mi vedi lampeggiare, suonare da dietro, fare dei gesti previsti, diciamo così, da un tipo che mi voleva appunto sorpassare. Finì il sorpasso, questo mi sorpassò e vidi che aveva un bambino in macchina. Scrisse, vabbè, ma va, gli dissi, vedi di andare, perché cominciò a sbraitare al momento che mi sorpassò. Ecco, come gli dissi ma va, questo cominciò ad andare a destra e a sinistra per bloccarmi la strada, si fermò una piazzola, poi mi risorpassò di nuovo, come se tutta la fretta avesse prima fosse già passata. Io lo risorpassai e lui prese, mentre lo stavo sorpassando, tirò fuori da uno zaino, fece finta perlomeno lì dallo specchietto, una macchina fotografica, e mi disse, ah, dopo ci risentiremo. Vabbè, disse, ci risentiremo. Gli aveva fatto la fotografia, che era? L'autovelox? Fatto in casa. Cioè, no, ho detto, se era un qualcuno delle forze dell'ordine, cioè veramente le forze. Sì, ma non gira con la macchina fotografica mentre guidano con i bambini in macchina a fotografare gli altri automobilisti, quelli delle forze dell'ordine. Non sorpassano appunto il. No, cioè che uno magari volesse fare. Forze dell'ordine nel senso buono, volesse far valere il suo potere perché si sentiva in diritto di non rispettare il limite, ovviamente mettere a rischio la vita di tutti. Ma non è solo questo qui, un altro caso eclatante che lì mi prese anche un po' paura, durante una monocorsia in autostrada, c'era gli 80 all'ora, ma arrivano una macchina, non so chi era, cominciano anche lì stesso discorso a lampeggiare, come dire vai, però io rispettavo i miei 80, come finisce il lavoro, io comincio ad orsi, e questi erano tre belli imbusti che più volte mi dissero di fermarmi perché avevo fatto perdere 10 o 15 secondi in quel chilometro. Però vabbè, sta confermando quello che comunque è il dato più evidente. Abbiamo iniziato con l'automobile, infatti l'automobile è chiaramente il luogo di scatenamento massimo di questa nuova forma di violenza urbana che stiamo percependo. Melog, la realtà condivisa. Pugni, calci e spinte, un occhio a rischio e la sensazione di totale impotenza contro una violenza senza spiegazioni. Si sente così il giovane ragazzo gay aggredito a Roma dopo una notte in un locale con il compagno. Una serata passata con gli amici nella Gay Street, a pochi passi dal Colosseo. Una volta rimasto solo, è stato braccato da dei ragazzi italiani e picchiato selvaggiamente. Ancora una violenza dettata dall'intolleranza nei confronti degli omosessuali. È successo ad un giovane romano appena uscito da questo noto locale della Continua l'elenco delle fattispecie in cui maggiormente si sviluppa la vena della violenza, che non si spiega, che non si capisce. Qualunque sia il punto di vista, errato, giusto, sbagliato, abominevole, riprovevole, antimoderno e via dicendo, uno può anche esprimerlo se vuole, buon per lui, peggio per lui, reputa responsabile, ma perché mettere le mani addosso? Perché arrivare alla follia di picchiare una persona, di picchiarla in gruppo, di massacrarla, di fare un pestaggio, che è qualcosa che sa di coatti di periferia, di malavita organizzata, di spedizione punitiva fatta da biechi individui, ma probabilmente c'è una sorta di riemergente anima bieca che coglie tutti noi. Noi, uomini che pensano di essere civilizzati, di aver superato questa fase. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo portare una testimonianza che è capitato proprio ieri. Ero al mare in Versilia, io sono toscana, e lungo la passeggiata camminavo col mio bambino di 1 anno e mezzo. Quindi più che altro io guardavo lui, non è che mi guardasse molto intorno. E a un certo punto appunto ho sentito vociare, quindi alzare la voce, mi sono girata per prendere il bambino e c'erano un ragazzo e una ragazza, presumo fidanzati, molto giovani, che discutevano e lì niente di particolare, se non che a un certo punto questo ragazzo gli ha mollato una ciaffata, come se c'era in pieno viso, così dal niente. E hanno continuato a discutere e dopo 2 minuti, 3 minuti, un'altra, proprio... E quello che mi dispiace è che sono rimasta col bambino in collo bloccata. Cioè è stato terrificante, bruttissimo, però non ho fatto niente. Beh, lei col bambino giustamente non ha fatto niente, cosa vuole fare? Mettersi in mezzo, non c'è cosa peggiore mettersi in mezzo a due che si stanno picchiando, poi con un bambino in braccio mi sembra ancora più difficile la cosa. Lo so, però ripensandoci ho pensato, devo dirgli qualcosa a quel ragazzo. Sì, quel ragazzo, però già dire, dopo il primo schiaffo la ragazza continua a stare lì e parlarci, cioè non voglio dire, ma c'è una certa complicità, non è che mi faccia poi tutta questa tenerezza e questa pena, perché uno che ti mette le mani addosso non ho passa un secondo. Certo, ho pensato anche evidentemente quello, fa parte del loro... È così giovane, guarda che oggi si menano tantissimo, le ragazzine sono molto violente, ma anche i ragazzi. C'è un ritorno ingiustificato alla violenza fisica. Le dico, io appartengo a una generazione in cui la violenza fisica inaccettabile, ingiustificabile, comunque appoggiava sulla pretestuosità dell'appartenenza politica. Sì. C'erano quartieri, zone, locali, bar, aree interdette in cui se non appartenevi o se appartenevi o se appartenevi troppo poco potevi rischiare l'aggressione, era normale, sia uno di destra, di sinistra, di centro, era diciamo biecamente normale in quei tempi. Oggi non c'è giustificazione, si prendono a schiaffi semplicemente perché sono pieni di rabbia, perché si vogliono far del male. La ragazza si fa prendere a schiaffi e continua a star lì a discutere senza o restituirli o prendere e andarsene. Evidentemente fa parte di un gioco consolidato tra i due. Insomma, ha fatto bene a non intervenire. Irene. Buongiorno. Io sento tutti che dicono, che assistono attoniti e dispiaciuti ad atti di violenza. Io volevo solo dire che io lo capisco. Io so perché non sono una donna, so perché sono una donna, non scendo mai dalla macchina e non picchio nessuno, ma io posso, cioè, è vero, non lo dica con tratti. Libertà, Irene, perché finalmente qualcuno che dice, sennò sembra che questo è il cotè dei buoni, delle anime pure e gli altri no, sono tutti no, cattivi. No, io sono buonissima, io a freddo in teoria non farei male a una mosca, ma sul serio, cioè io non ho istinti bellicosi, però ci sono spazi e sono sempre spazi pubblici in cui io mi sento proprio, cioè mi sento attaccata, invasa, perché in effetti, per esempio, il traffico è il principale, anzi direi l'unico, il traffico, e io posso capire che le persone che ci lavorano nel traffico, che vivono questa usura costante, questo clacson costante, questo essere fermi ai semafori, strade sempre congestionate, con uno che ti passa davanti, uno che ti passa dietro, ti gira un attimo, c'è un ciclista davanti. Dice, alla fine lo sbrocco è abbastanza fisiologico. Ma io non potrei fare quel lavoro lì, perché sarei già in cross. Sì, però chi lo fa, è come dire, io faccio il beccamorto, però mi fanno paura i cadaveri. Se uno fa il tassista, deve essere abituato a stare in mezzo a... Io non difendo i tassisti, non difendo nessuno che alzi la mano su un altro. Non sto difendendo, io sto solo dicendo che un sacco di volte io mi trovo veramente furente al traffico, oppure non so, quando ci sono delle code. Guardi, che provare un istinto di aggressività penso anche abbastanza sano. Chi è che, se non lo provasse, dovrebbe interrogarsi e dire: che mi succede? C'è qualcosa in me che non funziona. Arrivare al punto di dare dei segnali della propria rabbia al prossimo per tenerlo a bada è altrettanto giusto e va calibrato. Per sbroccare, certo, andare delle mani aggredendo, secondo me non è utile. Lo sa perché non è utile? Perché alla fine, come comunque vada, noi va male. Se noi vinciamo e picchiamo l'altro, ci va male. È anche degradante. Ci si sente male, guardi. Dopo capita, a tutti è capitato, anche a me è capitato nella vita. Dopo un po' ci sente male, ci sente ridicolo, a meno che non ci sia incalliti, ci sente stupidi aver alzato le mani, aver gridato. Non ho mai picchiato manco un cagnolino, però voglio solo dire che io ogni tanto si parte proprio la brocca e non faccio niente perché sono una donna e sono in inferiorità fisica manifesta tutto lì. Però se avesse qualcosa per le mani l'userebbe. No, perché io ho paura dello scontro fisico, però volevo soltanto dire che non lo dice nessuno, volevo soltanto dire che io capisco che a qualcuno gli parta l'embo. No, ma io non è che non lo capisco, voglio capire le ragioni. Mi scusi se interrompo, sì. Ma è una considerazione che è anche politica, perché noi dobbiamo pensare che noi facciamo sempre grandi discorsi di politica, sul senso civico che è sparito, sulla scarsa partecipazione, però io mi sono trovata molte volte a pensare che le persone la maggioranza dei cittadini, prima che sentirsi cittadini, si sentono utenti, quasi sempre insoddisfatti, di servizi quasi sempre carenti, dal traffico ai mezzi pubblici. Sì, potevo fare un elenco da oggi a domani, potremmo metterci le tasse, possiamo metterci il clima, le stagioni che cambiano. No, ma tutto questo sono gli spazi pubblici, che sono la prima forma. Sì, ho capito, guardi, io non sono, mi faccio parlare, non sono a mammoletta, né sono un istigatore del vogliamoci bene, siamo fratelli, abbracciamoci. Capisco tutti gli sbrocchi del mondo, poi dico, se tutti facessimo così, dobbiamo metterci d'accordo, le piazze diventano un ring, allora usciamo attrezzati a questo punto, se no non possiamo uscire ed entrare da un grado di civilizzazione che abbiamo acquisito così all'improvviso. Maria. Sì, pronto, buongiorno. Io volevo portare la mia testimonianza. Qualche anno fa sono rientrata, che ero andata a teatro, e praticamente sono stata subito minacciata dalla signora che abitava sotto di me, dicendomi: se scendi io ti metto le mani addosso. Ma anche io ho pensato, io dovevo uscire per portare fuori. E perché voleva metterle le mani addosso? Forse era innamorato. No, era una donna, guardi. Ah, una donna? Quindi era una donna. Facevate a capelli. E com'è finita? Allora, praticamente io sono scesa perché dovevo portare questi due cani. C'è stata la colluttazione? Sì, mi ha cominciato. Dunque, sono scesa. Devo chiudere. Chi ha vinto, lei o la vicina? Dunque, praticamente chi l'ha presa, lei o la vicina? Ha vinto la vicina. Bene, ha vinto la vicina, mi dispiace. Grazie Rocchetti, grazie Intonti, ci sentiamo domani.